dolce Dominique, trasparente contro il sole l'abito che hai. Hai le forme di una Venere, sei bella sai. Non ti importa proprio niente il male che ti fai. La tua libertà, quell'idea di essere libera ti porta ormai verso strade senza fine, senza uscita e poi non toccare quella polvere, ti ucciderai. Non ti lascerò parlare di lei, perché non ha senso parlare di lei. Non ti lascerò parlare d'amore, così non ti voglio. Non ti lascerò insieme ai tuoi giochi con quei strani amici. Non ti lascerò, non mi stancherò. Ti strappo dal male, vedrai che ci riuscirò. Dominique, quanto tempo sei rimasta fra le nuvole? Quanti anni avrai bruciato abbandonandoti? Sei riuscita a dare amore alla tua anima? Non è tardi, sai, io ti ho amato, ti ho curata, puoi rivivere. Vieni a prenderti l'amore che c'è dentro me. Ti ho aspettato, ti ho seguita, sono qui se vuoi. Non ti lascerò parlare di lei, perché non ha senso parlare di lei. Non ti lascerò parlare d'amore, così non ti voglio. Non ti lascerò insieme ai tuoi giochi con quei strani amici. Non ti lascerò, non mi stancherò. Ti strappo dal male, vedrai che ci riuscirò. Ti strappo da